Lettera Costante è una canzone che Ivan ha scritto all'amico contadino Costante che viveva a Torre Alta. Io una sera andai a trovare Luciano e invitò quella sera degli amici locali e a un certo punto io mi misi a cantare questa canzone e tutti applaudirono dopo, ma perché? Perché scoprì che quelli che erano lì erano i parenti di Costante. E il giorno dopo la figlia di Costante venne a salutarmi e mi portò la fotografia, che è ancora a casa. Io non ho conosciuto Costante, ma la canzone mi piace molto e la faccio volentieri. Ti ho dato una pipa e ti sei rotta. Era pezzata ma con tanto amore. M'ha detto mio fratello che la fumi. Solo di festa e per poche ore. Solo di festa e per poche ore. Costante oggi è festa qui al paese. Tu scendi piano piano giù dal colle. Io dolce teso sugli ulivi, con la mia pipa e col suo fumo molle, con la mia pipa e col suo fumo molle. La pipa della festa è il tuo cammino. Vita è tutta scritta e secca come il vino, è sempre bella, è sempre rifiorita, è sempre bella, è sempre rifiorita. Costante c'hai due baffi in allegria, la faccia larga e buona e sorridente. Vorrei che la tua pace fosse mia. Vorrei saperla dire alla mia gente. Saperla dire alla mia gente. Vorrei, ma quella pipa è in cucina. Nessuno più la fuma quando è festa.